Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 761 e parleremo di cervi minacciati, di orsi ribelli, di animali selvatici mandati incredibilmente al macello, di dinosauri e di tartarughe marine che ostinatamente continuano a scegliere le spiagge italiane. La ricetta della settimana e anche la colonna sonora della puntata sono a cura del tosco vegan chef, nonché DJ, Gabriele Palloni. I selvatici, ne abbiamo parlato tante volte, è un tratto tipico del rapporto fra società umane e animali in questa fase storica, nel nostro paese e nel resto d'Europa almeno. È una guerra condita da sempre nuovi particolari, a volte raccapriccianti, a volte rivelatori di una filosofia d'azione che resta lontana sia da un razionale esercizio di un'autorità, peraltro discutibile, sia da un'apertura che invece sarebbe necessaria a una relazione nuova, più equilibrata, fra umani e altri animali. Una relazione quindi più attenta di quanto non sia oggi alle esigenze di chi vive in natura. In Abruzzo, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, la regione ha avviato un piano per l'abbattimento di 500 cervi di ogni età e genere, dai cuccioli agli adulti, femmine e maschi, con l'intento dichiarato di contenerne la popolazione giudicata eccessiva. E con l'obiettivo inoltre di proteggere le coltivazioni. La misura ha scatenato l'opposizione delle organizzazioni animaliste che vedono in questo provvedimento un atto formalmente tecnocratico, dovuto al superamento di certi indici di popolazione per ettaro, ma di fatto un regalo alla solita lobby dei cacciatori, incaricati in questa opera di uccisione di massa definita di selezione. La delibera della Regione Abruzzo fa emergere poi un particolare, e cioè la cifra richiesta a ciascun cacciatore come premio, così definito, cioè come contributo agli enti pubblici preposti alla tutela di fauna e flora. Ai cacciatori interessati a uccidere legalmente i cervi viene quindi presentato un tariffario, con una somma da versare in cambio della facoltà di uccidere. Sono 50 euro per un cucciolo di cervo, 100 per le femmine giovani e adulti, 150 euro per i maschi giovani e 250 per gli adulti, quelli cioè con più di 5 anni di età. Le cifre salgono fino a un tetto di 600 euro se i cacciatori non sono residenti in Abruzzo, cioè dei cacciatori turisti. È un insieme di cose che hanno spinto a un giudizio molto netto Michela Vittoria Brambilla, parlamentare della destra, presidente della Leidea e del gruppo interparlamentare per i diritti degli animali. Al peggio non c'è mai fine, ha detto Brambilla. Non soltanto l'Abruzzo, in passato una delle regioni più attente alla convivenza con la fauna selvatica, ha decretato la morte di quasi 500 cervi, ma sostanzialmente li vende ai cacciatori. Secondo un tariffario tanto dettagliato quanto imbarazzante. Ecco a quali aberranti conseguenze si può arrivare quando si decide di aggredire il patrimonio di tutti a vantaggio di pochi. C'è il sospetto, insomma, che il provvedimento di abbattimento dei cervi sia stato deciso anche per aiutare il finanziamento degli organismi regionali preposti alla tutela e al controllo della fauna e della flora selvatica. All'origine del provvedimento, dicevamo, c'è una valutazione tecnica, cioè il superamento in alcune zone della regione della soglia di 2 capi per chilometro quadrato. Oltre questo limite, secondo le normative abruzzesi, scatta la caccia di selezione. Risulta quindi che in 2 aree siamo arrivati a 2,38 e 2,54 cervi per ettaro, e così la regione ha emanato il bando per il massacro dei cervi. Una misura che soddisfa evidentemente i cacciatori, ma intende anche andare incontro a quei coltivatori che lamentano danni alle proprie colture e che sperano di non averne più una volta eliminati i 500 cervi. Una speranza, a dire il vero, decisamente infondata, se prendiamo in considerazione l'esperienza storica compiuta negli ultimi anni. Le campagne di abbattimento, tanto invocate dai coltivatori, non hanno affatto ridotto i danni alle colture. Ne è una riprova quanto avvenuto in Toscana, dove si è dato il via libera, a furor di cacciatori e agricoltori, a una mattanza di cinghiali già 6-7 anni fa. Una mattanza che non ha dato alcun risultato, né sotto il profilo della riduzione della popolazione di ungulati, né per la protezione delle coltivazioni. Niente di strano, anzi tutto previsto dai biologi e dagli esperti di comportamento animale e di vita nei boschi. I cinghiali, messi sotto pressione esterna, tendono a riprodursi di più. E perciò i vuoti di popolazione causati dai cacciatori vengono presto colmati, come sono colmati i vuoti nelle aree vicine ai campi coltivati. I cinghiali, semplicemente, tendono ad accorrere dove ci sia cibo disponibile, e un campo coltivato è sicuramente una grande attrazione. Se dei cinghiali lì vicino vengono uccisi, ne arriveranno altri. L'unico modo per difendere i campi è appunto proteggerli, con reti e altre misure di prevenzione. E questa è anche la modalità più intelligente, più ragionevole, per costruire nuovi modi di intendere la vita nelle campagne e in prossimità dei boschi, le relazioni, insomma, con gli altri viventi. Ha provato a spiegarlo alla giunta regionale abruzzese anche il presidente del WWF Italia, Luciano Di Tizio, come riporta un articolo del Corriere della Sera firmato da Silvia Morosi. Affidarsi ai fucili, dice Di Tizio, è una comoda scorciatoia che consente ai politici di dire ho fatto qualcosa, senza impegnarsi davvero a sostegno del mondo agricolo. E qui Tizio pensa appunto a dissuasori, recinti elettrificati e rimborsi certi e rapidi per i danni. Le uccisioni, dice il presidente del WWF, non risolvono nulla. Da decenni si contrasta l'aumento dei cinghiali con la caccia e i cinghiali, peraltro introdotti per ragioni venatorie, continuano a aumentare. Non è questa la strada giusta. Eppure, diciamo noi, questa scellerata politica di violenza cieca e fine a se stessa prosegue a dispetto dei fatti, della realtà, ed è una sorta di pensiero magico che tiene insieme i decisori politici, gli ingenui o stolti agricoltori, gli interessi dei cacciatori, che vengono chiamati in causa per compiere il loro mestiere, uccidere in nome di una inesistente utilità sociale. Davvero stiamo vivendo il tempo dei paradossi e dell'insipienza politica. Cloud on the rise. Qualcosa di peggio rispetto all'Abruzzo nel rapporto con gli animali selvati sta accadendo in Namibia, paese africano noto per le sue meraviglie paesaggistiche, per gli animali che vivono liberi e anche, a dire il vero, per essere stato all'inizio del Novecento teatro di un genocidio delle popolazioni indigene a opera della potenza colonialista, in questo caso la Germania, o meglio la Prussia come si chiamava allora. Lo sterminio in particolare colpì la popolazione degli Herero. Il governo della Namibia, dunque, ha in progetto e anzi ha già cominciato a far uccidere 723 grandi animali selvatici, non già per contenerne la popolazione o per offrire a ricchi turisti cacciatori gli ambiti quanto macabri trofei, bensì addirittura per sfamare almeno in parte la popolazione. Secondo il piano del governo, gli animali, fra cui 83 elefanti, sono stati e saranno cacciati nelle zone in cui sono più frequenti i conflitti fra la popolazione umana e la fauna selvatica, e la loro carne sarà distribuita alle persone che faticano a procurarsi da mangiare. Come si legge sul sito del Post, l'Africa meridionale è attualmente interessata da una prolungata siccità, particolarmente grave in Namibia, e lo scorso 23 agosto uno dei portavoce delle Nazioni Unite ha detto che la siccità in corso è la peggiore dell'ultimo secolo e che l'84% delle risorse alimentari del paese è stato esaurito e che quindi quasi la metà della popolazione avrà difficoltà a reperire cibo in maniera adeguata. Che la soluzione a questa emergenza possa essere la decimazione degli animali selvatici a fini alimentari, però, sembra davvero poco credibile. E infatti il governo giustifica il provvedimento anche come misura preventiva di sicurezza, nel timore che i conflitti fra popolazione locale e animali possano accrescersi a causa della siccità, con gli animali più propensi del solito ad avvicinarsi ai centri abitati. La soluzione diventa allora lo sterminio. E così il governo prevede che gli elefanti e gli altri animali, 300 zebre, 100 gnu, 150 antilopi, 60 bufali, 30 ippopotami, siano uccisi nei parchi nazionali e nelle zone in cui le popolazioni delle diverse specie sarebbero eccessive o ritenute tali per le risorse d'acqua e di cibo disponibili. La caccia è già cominciata, in pochi giorni sono già stati uccisi 157 animali, da cui sono stati ottenuti 56.000 kg di carne. Anche in questo caso, ci pare, la politica dimostra una progettualità pressoché inesistente, nonché l'attitudine a governare con lo spauracchio della paura e dell'emergenza, e a preferire sempre, con lo scopo di acquisire o mantenere consenso, lo strumento sbrigativo della violenza, della supremazia. Lo sguardo non riesce ad alzarsi oltre l'orizzonte, l'immaginazione non riesce a spingersi oltre l'immediato. Sono anche questi segnali della cupezza dei tempi che viviamo, tempi di guerra e dell'assenza di prospettive, se non riusciremo davvero a correggere il paradigma dominante. Cambiare il paradigma dominante avremo bisogno, ci capita spesso di dirlo, anche di un moto di ribellione, una ribellione ideologica e nei fatti, per giungere appunto a un nuovo modello di interpretazione della realtà e di presenza nel mondo, con relazioni nuove e diverse fra la specie umana e le altre forme viventi, ma anche all'interno della nostra specie. Alle volte proprio gli animali danno il buon esempio, con concreti atti di ribellione. È accaduto recentemente nella città di Bihisk, in Russia, come riporta fanpage.it. Un orso, sottoposto a sostanziali torture durante uno spettacolo circense, si è ribellato al domatore davanti a centinaia di spettatori. L'orso, anzi un'orsa di nome Donut, non è arrivata alle estreme conseguenze e ha risparmiato l'uomo, limitandosi a saltargli addosso e a immobilizzarlo. C'è un video in rete che mostra la scena di Donut, inizialmente costretta, un'immagine davvero raccapricciante, a muoversi su un asse con due ruote, e che poi si dirige verso il domatore e lo butta a terra. L'uomo, Sergej Pricinic, è riuscito a rimettersi rapidamente in piedi e l'orsa a quel punto ha rinunciato a insistere ed è tornata sui suoi passi. Il suo è stato un gesto dimostrativo, una ribellione istintiva e purtroppo per lei la prigionia è destinata a continuare. Speriamo che finisca invece presto la triste storia dei circhi con animali prigionieri. Continuiamo a parlare di animali selvatici, stavolta con qualche tratto positivo. Fioccano le notizie in questi giorni circa le tartarughe marine caretta caretta, forse gli animali acquatici più conosciuti e più vezzeggiati del nostro paese. Suscitano attrazione e commozione queste tartarughe perché continuano a deporre le proprie uova sulle spiagge italiane, a dispetto dell'intenso sfruttamento turistico delle nostre coste. Sono frequenti gli avvistamenti di mamme caretta caretta da parte di turisti in spiaggia e anche le catene di protezione e vigilanza organizzate per consentire alle uova deposte sotto la sabbia di schiudersi e alle neonate tartarughe di arrivare al mare indisturbate, seguendo semplicemente l'istinto, a dispetto degli ombrelloni, dei teli da mare, degli schiamazzi dei bagnanti. In Puglia, per dire, nella riserva di Torre Guaceto, sono nate 102 tartarughe nel primo nido documentato nell'area protetta. Un evento eccezionale, concluso con l'ingresso in mare delle piccole tartarughe grazie all'impegno del personale del consorzio di gestione, dei volontari dei campi WWF e dell'associazione Io Sono Torre Guaceto, che in staffetta hanno presidiato e protetto il nido. Nei giorni abbiamo monitorato la schiusa di numerose uova, ha spiegato all'agenzia AGI Giacomo Marzano, il biologo responsabile del centro recupero tartarughe marine del consorzio di gestione di Torre Guaceto, fino ad arrivare a registrare la nascita naturale di 88 esemplari. Poi, a 3 giorni dal blocco delle schiuse, temendo che la pioggia avesse eccessivamente compattato la sabbia, impedendo agli animali di emergere, siamo intervenuti per agevolare l'apertura delle ultime uova. Sono così venute al mondo ulteriori 14 tartarughe marine. Insomma, c'è stato l'intervento di protezione, ma anche un'attenzione legata a precise conoscenze etologiche, con la scoperta delle ulteriori 14 tartarughe e la loro liberazione. Meno bene, da questo punto di vista, è andata la nidificazione di una tartaruga marina davanti alla spiaggia di Morcone, nel comune di Capoliveri, all'isola d'Elba, davanti alla costa livornese. La caretta caretta, come spiega in una nota Lega Ambiente dell'arcipelago toscano, è arrivata il 23 agosto di fronte al tratto di spiaggia, dove già 3 anni fa aveva nidificato una tartaruga. Ma stavolta l'animale è stato disturbato da alcuni turisti, che si sono tuffati in mare con la maschera per vederla da vicino. In questo caso, dunque, abbiamo avuto poca conoscenza e troppa curiosità a segnalare un rapporto malato con gli animali selvatici, che vanno rispettati, e cioè devono essere lasciati in pace. Così Isa Tonso, responsabile del progetto Tartarughe Marine di Lega Ambiente e Parco Nazionale Arcipelago Toscano, è stata costretta a far notare che quest'anno a Morcone, purtroppo, è stato fatto tutto quel che non bisogna fare quando si avvista una tartaruga marina vicina o su una spiaggia. Mamma tartaruga è stata disturbata proprio in uno dei momenti più delicati, mentre cercava di raggiungere una spiaggia per nidificare. E questo, fra l'altro, è anche un reato, visto che si tratta di animali protetti dalla legge italiana e dalle direttive europee. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Fra i luoghi preferiti dalla caretta caretta ci sono le spiagge della Maremma, parco naturale poco attrezzato per la balneazione e il classico turismo da ombrellone. E perciò abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore di vari volumi, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di regalarci questa settimana una ricetta in omaggio alla Maremma. Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Se Lorenzo ci ha portato in Maremma per parlarci delle tartarughe, io vi ci riporto per raccontarvi dei topi, ma quelli di cui vi parlo non sono altro che dei dolcetti tipici delle feste della Bassa Maremma, i topi di Castellazzara. Gli ingredienti sono: per la sfoglia 300 g di farina, 100 g di olio extravergine di oliva, 100 g di zucchero di canna, 70 g di rosolio, 20 g di farina di ceci, 8 g di crema or tartaro e un pizzico di curcuma. Per il ripieno 100 g di noci, 100 g di sciroppo di agave o malto di orzo, mezzo cucchiaino di semi di anice, un pizzico di cannella e la scorza di mezza arancia grattugiata. In una casseruola unite lo sciroppo di agave e le noci tritate grossolanamente. Aggiungete la scorza di arancia grattugiata, l'anice e la cannella e mettete sul fuoco. Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti, quindi lasciate intiepidire. Successivamente, con le mani unte di olio, realizzate delle piccole polpette ovali con questo impasto e lasciatele raffreddare completamente. Nel frattempo preparate la pasta. Unite tutti gli ingredienti per la sfoglia in una ciotola e impastate con le mani. Finite poi di lavorare sulla spianatoia fino ad ottenere una pasta liscia e compatta che lascerete riposare avvolta nella pellicola per mezz'ora in frigorifero. Recuperate la sfoglia e stendetela a mezzo centimetro di spessore. Con un bicchiere coppate dei dischi e adagiate al centro una polpettina di noci. Piegate a metà come una mezzaluna, sigillando bene i bordi, e disponete su una teglia con carta forno. Spennellate con un pizzico di curcuma stemperato in poco latte di soia e infornate a 180 gradi per 15 minuti. La storia dell'umanità, come ben sappiamo, ha le sue radici in Africa, dove la specie umana, è proprio il caso di dirlo, mosse i suoi primi passi, prima di popolare anche il resto del pianeta, fino a stabilire il dominio, attraverso molti passaggi, della specie oggi unica e dominante, Homo sapiens. È una storia piena di colpi di scena, quella che riguarda gli animali umani e no sul nostro pianeta, e include un ruolo anche per i dinosauri, le cui tracce ci aiutano a capire quali passaggi sono stati compiuti nella complessa evoluzione della vita animale sul pianeta. Il ritrovamento di oltre 260 impronte di dinosauri scoperte fra Brasile e Camerun e collegate fra loro mostrano dove si sarebbe potuto trovare l'ultimo ponte che 120 milioni di anni fa avrebbe permesso il passaggio fra Sud America e Africa, prima che i due continenti si separassero definitivamente. È un fatto storico remoto ma affascinante, rivelato da uno studio pubblicato dal New Mexico Museum of Natural History and Science, condotto da un team internazionale di esperti guidato dal paleontologo Lewis Jacobs della Southern Methodist University in Texas. Le impronte, ritrovate in Sud America e Africa, sono simili per età, forma e contesto geologico e sono rimaste impresse nel fango e nel limo lungo antichi fiumi e laghi. Queste impronte sono state trovate, come detto, a più di 6.000 km di distanza su sponde opposte dell'Oceano Atlantico. Come ha spiegato Jacobs, una delle più recenti e strette connessioni geologiche fra Africa e Sud America era il gomito del Brasile nordorientale, incastonato contro quella che oggi è la costa del Camerun, lungo il Golfo di Guinea. I due continenti erano contigui lungo quello stesso tratto, così che gli animali, su entrambi i lati di quella connessione, potevano potenzialmente muoversi attraverso di essa. Testimonianze di questi eventi sono rimaste nei sedimenti e nei pollini fossili rinvenuti in entrambe le località in cui sono state trovate le impronte di dinosauri, nella regione di Borborema del Brasile nordorientale e nel bacino di Coumb nel Camerun settentrionale. Insomma, pensando anche ai dinosauri, la conclusione è che siamo davvero tutti un po' cugini gli uni degli altri. E avremo tutti bisogno di fare un aggiornamento, anche alla luce della paleontologia, oltre che della nostra storia, della nozione di identità che ci viene spesso propinata. The drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you." Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberto Marino, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.